Il punto di Stefano Folli. Un referendum sul leader carismatico fatto sul web e sui blog non lascia dubbi sul risultato finale, trionfo del capo, soprattutto se si chiama Beppe Grillo e se non esiste, come ovvio, alcuna alternativa a lui nel Movimento 5 Stelle. Ma cosa si sarà risolto in questo modo? In sostanza niente. Continuerà lo stillicidio dei dissidenti, delle defezioni, delle espulsioni nei gruppi parlamentari e fra tutti coloro che avranno un po' di potere acquisito con i risultati elettorali. Il fatto è che i grillini hanno bisogno di scelte politiche, non solo di un leader che prosegue nel giorno per giorno con gli anatemi, i proclami e gli insulti dei comizi in piazza. Stare nelle istituzioni è difficile se non si ha un personale all'altezza e se l'unica prospettiva è combattere la casta, il che può andare bene, ma allora c'è bisogno della rivoluzione, e subito. Se la rivoluzione non è in orario e manca un piano B, ecco che arrivano i problemi.